Fuori di noi, trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile, a cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto. Bentornati sulle frequenze di Blu Radio Veneto, cari amici radioascoltatori, per una nuova puntata di Fuori di Noi, trasmissione dedicata al mondo degli oratori e al mondo giovanile, in compagnia insieme con Anna Zampieri di ACR e Cristian. Grazie, ciao Anna, allora come stai? Sì, bene, grazie. Tu? Passata una buona settimana? Sì, dai, tutto a posto. Mi dicono che da qualche giorno sono un po' carico, ma forse sarà perché appunto domenica scorsa c'è stata, l'avevamo detto nella scorsa puntata, la festa del Noi di Treviso, festa di compleanno, 10 anni di Noi, 2002-2012. L'abbiamo festeggiata nell'oratorio San Giorgio di Quinto, eravamo circa 400 persone in rappresentanza di alcune decine di circoli oratori facenti parte appunto di Noi Treviso Associazione. È stata una bellissima festa, nonostante il fatto che abbia piovuto dall'inizio alla fine. Ci siamo ritrovati alle 9:30, abbiamo insieme fatto un momento di accoglienza. Don Bernardo Marconato, presidente di Noi Treviso, ha salutato tutti i presenti. Poi abbiamo cominciato dei laboratori, cosa assolutamente nuova, cioè abbiamo radunato tutti gli adulti, perché hanno partecipato, Anna, sia bambini che adulti, quindi le famiglie erano le protagoniste. Ci siamo ritrovati con gli adulti per fare un'attività sul conflitto, le relazioni, molto bella, anche molto simpatica, e i ragazzi invece hanno fatto un'attività legata un po' al gioco, e alla fine hanno scritto un cartellone: pace e noi, due parole che hanno portato anche durante la messa, e hanno un po' spiegato qual era la loro attività e hanno fatto un augurio, un invito che all'interno degli oratori, di tutti gli oratori, ci sia la pace, non soltanto come parola ma come fatto concreto, come relazione. Una bella occasione anche di scambio, una bella occasione di incontro. Poi abbiamo avuto la messa appunto nella parrocchiale di Quinto, poi abbiamo fatto i giochi organizzati, dove sia adulti che bambini giocavano insieme, ma anche bambini e adulti di diversi oratori insieme. Non era la squadra, l'oratorio X, che giocava contro la squadra dell'oratorio Y, ma erano tutti mischiati con delle bandane colorate, e alla fine verso le 5:30 ci siamo salutati e ci siamo dati appuntamento magari al prossimo anno, ospiti di un altro circo. Insomma, una festa bellissima, 10 anni insieme facciamo festa, grazie all'organizzazione dell'oratorio e dei volontari della realtà appunto di San Giorgio di Quinto, insieme con i responsabili di Ospedaletto, Istrana e Sant'Alberto di Zero Branco, che hanno collaborato perché la festa è stata riuscitissima. E abbiamo anche mangiato, Anna. Ah, sì? Abbiamo anche mangiato, ci hanno offerto una pasta asciutta e poi abbiamo condiviso quello che avevamo portato, chi dolci, chi pizzette, chi tramezzini, insomma una festa proprio familiare. Nonostante, ripeto, la pioggia, è andato tutto benissimo. Quindi le famiglie sono state contente. Ma pensa che avevano organizzato anche un pullman che è partito verso le 3:30 per chi voleva, adulti soprattutto, sono andati a visitare con una guida la pala di Santa Cristina la vicina, quindi una pala di un pittore famoso, e quindi hanno avuto anche un momento culturale e storico che è stato molto apprezzato. Un'oretta sono andati anche a fare questo excursus culturale, insomma tutto è filato molto bene, e spero appunto, visto che noi abbiamo vissuto e anche raggiunto, concluso questa festa, che anche voi che state preparando come Azione Cattolica il convegno diocesano sia altrettanto bello e ricco come abbiamo cercato di viverlo. Grazie. Noi quindi passiamo il testimone adesso, da oggi, all'Azione Cattolica di Treviso per il convegno, che ricordiamo la data 13 maggio, tutti al Parco Ali Dorate di Treviso. Sarà una grande festa, speriamo sia una meravigliosa giornata, ma anche se piove, sinceramente, cosa ci interessa, basta stare insieme e vivere questa giornata sotto l'insegna di puntare in alto. Rubrica che continuiamo anche oggi a proporre. Ospiti protagonisti di questa puntata sono i ragazzi della CR di Selvana. Ecco, Anna, raccontiamo un po' questo progetto. I bambini sono venuti qua insieme con i loro educatori e cosa hanno fatto? Sì, allora i ragazzi, dopo essersi presentati brevemente sotto forma di una specie di carta d'identità botta e risposta, hanno poi raccontato un'attività speciale che loro hanno fatto, e all'insegna della spiritualità, quindi un'attività profonda che li ha portati a conoscere meglio Gesù, perché scopo principale della CR è proprio questo: incontrare Gesù e conoscerlo sempre meglio. E anche quello, e questa forma di annuncio si realizza anche attraverso l'oratorio, anche al di là del bancone, anche mentre servi un caffè, anche mentre giochi a calcetto. Ogni luogo è buono per annunciare appunto il Vangelo, e questo è quello che spinge i nostri volontari, perché alla fine non è soltanto un passatempo, ma è anche una forma di annuncio essere all'interno di un oratorio, così ovviamente come essere educatore all'interno di un gruppo come l'ACR, come l'Azione Cattolica. Protagonisti di questa puntata lo sono fin d'ora, perché appunto come la settimana scorsa i gruppi protagonisti di questa rubrica che abbiamo chiamato Puntare in Alto, in oratorio si punta in alto, scelgono anche i brani musicali da proporre. E quindi con la regia di Edi Daici, che noi salutiamo e ringraziamo e abbracciamo calorosamente perché ci accompagna sempre, mandiamo il primo brano musicale scelto dai ragazzi della CR di Selvana. Hanno scelto una canzone famosissima che si sente in tutte le radio, ma è veramente molto bella. Il grande David Guetta con Titanium. You shot it. Abbiamo iniziato allora questa puntata con il primo brano musicale scelto dai ragazzi della CR di Selvana, che sentiremo dopo per quanto riguarda la puntata, la rubrica In oratorio si vola in alto, proprio questa collaborazione che noi e Azione Cattolica ha instaurato fin dall'inizio appunto della programmazione, ma continua da diversi anni. Anna, ovviamente noi non abbiamo ricordato quando andiamo in onda, fuori di noi, quando vai in onda? Allora, il sabato alle 14 e la domenica alle 12.30. C'è un'email a cui mandare magari qualche informazione? Allora, si può scrivere a fuoridinoi@libero.it. Un sms per chiedere magari informazioni? Sì, al numero 320 61 346-964. Ecco, noi cerchiamo sempre in ogni puntata di raccontare, diciamo, qualche evento che sta appunto per nascere, che è in cantiere, che è già stato realizzato, anche per dare spunti a coloro che ci ascoltano per magari portarlo, calarlo nelle proprie realtà. E adesso siamo però alla conclusione, o meglio, è una conclusione ma è anche un inizio, cioè si conclude, diciamo, proprio qualche giorno fa c'è stata la presentazione a Treviso della proposta del Grest 2012, che ha un nome particolare, ha un sussidio, ha delle canzoni, un progetto che ogni anno che passa diventa sempre più specifico, sempre più ricco di proposte e iniziative. E noi ovviamente, come ospite di questa puntata, abbiamo uno, diciamo, dei pensatori, dei creatori della proposta 2012 di quest'anno, e non solo di quest'anno, anche gli anni scorsi ha dato un contributo molto importante. Vediamo se ce l'abbiamo in linea, te lo presento, Anna. Don Dario, ci sei? Sì, ci sono. Ciao, ecco qui. Ciao Don Dario, ciao. Allora, Don Dario, è una delle prime volte appunto che l'abbiamo appunto all'interno di Fuori di Noi, e l'abbiamo ovviamente chiamato perché qualche giorno fa appunto a Treviso è stato presentato il Grest. Lui è una parte, diciamo, dell'organizzazione, l'anima, diciamo, della proposta di quest'anno, e quindi Anna, passo a te la parola per fare la prima domanda a Don Dario, organizzatore e anche pensatore di questo sussidio, che ovviamente è già adesso disponibile e si può anche trovare. Dario, ho visto che quest'anno, facciamo una piccola premessa, poi tu magari la spiegherai meglio, il sito www.noigrest.it non è mai stato così ricco fin da aprile, ma forse anche prima di aprile, già a marzo, con notizie, news, personaggi. Cioè praticamente, se uno volesse già organizzare un Grest oggi, potrebbe avere già gran parte del materiale online, quindi praticamente siete troppo avanti. Anna, prima domanda a Don Dario. Sì, allora, ciao Don Dario, ecco, io vorrei chiederti com'è nata la storia del Grest 2012? E come si chiama innanzitutto? Beh, intanto si chiama Stella, che è la protagonista della nostra storia. Beh, è nata in maniera molto semplice. L'estate scorsa abbiamo avuto... ci è piaciuta la storia di DJ, di Davide, di questo Davide bambino, e abbiamo visto che è piaciuto anche ai ragazzi, come è stata proposta con i balli e tutto quanto, poi anche il sussidio. Ci piaceva riproporre l'idea di un personaggio biblico, però volevamo proporre un personaggio biblico femminile, perché ci sembrava che fosse qualcosa anche di diverso, ma che rendesse protagoniste anche le ragazze, che a volte nei personaggi delle nostre storie non vengono citate o diventano semplicemente di contorno. Certo. L'idea di un personaggio biblico, l'idea di coinvolgere un personaggio femminile, ci ha un po' rimandato all'idea di Esther, ad andare a vedere, a strutturare, a scoprire il personaggio di Esther, questa regina che si lascia guidare, educare dallo zio, che si fida di Dio, che rischia anche personalmente la sua vita. E soprattutto la cosa che ci piaceva era che questa Esther, più entra in sintonia con Dio, più diventa bella, affascinante, interessante. Cioè diventa una persona che si fa ascoltare, tanto che anche l'imperatore a un certo punto acconsente ad ascoltarla. Ecco, questa figura di regina, della regina Esther, la troviamo oggi in Stella, che è una ragazza di oggi, una diciottenne, un'animatrice in questo caso, non più Davide, il piccolo Davide, ma un'animatrice che ha dei grandi sogni, che ha le capacità per costruire delle basi solide per il suo futuro, ma sa anche di avere dei grandi doni e vuole scoprire quali sono questi doni. Chi sarà un sogno che Stella avrà? E questo sogno poi condurrà tutta quanta la nostra storia. Don Dario, una cosa, mi pare che da qualche anno, appunto l'anno scorso con Davide, quest'anno con Esther, forse già state pensando, perché lo so, state già pensando al futuro, quindi già il prossimo anno. Appena, Anna, pensano a un progetto e lo concludono, il gruppo, diciamo, del Grest, del Noi appunto, con Don Dario e altre persone che magari poi ci racconterà, già stanno pensando al futuro. Però credo che la novità essenziale sia questa, cioè voi prendete ispirazione e in qualche maniera attualizzate figure bibliche per poi calarle nel, diciamo, in un'attività, quella del Grest, che in qualche maniera è l'unica attività all'interno di una parrocchia diretta veramente a 360 gradi, cioè verso tutti i tipi di destinatari, cioè adulti, anziani, bambini. Credo che questa sia una scelta, e forse anche questa l'originalità di questa proposta del Noi Veneto, che da diversi anni, ripeto, prende storie bibliche e cerca di attualizzarle con personaggi e con idee e anche con un linguaggio ovviamente in sintonia con il tempo di oggi. Ti chiedo una cosa, quali sono i temi principali di questa storia? Guarda, i temi sono tantissimi, noi abbiamo voluto centrarne alcuni. Intanto il tema della vocazione diventa centrale. Stella cerca il senso della sua vita. Poi insieme a questo tema c'è la bellezza, che è la tematica del libro di Esther, la bellezza, quella bellezza che crea veramente interesse e che ti invita a cercare l'altro, quindi non solo la bellezza esteriore, anche se Stella si presenta come un'animatrice bella e anche affascinante, però è qualcosa di più. Poi ci sono altri valori, cioè l'amicizia, cioè la disponibilità a farsi guidare dall'altro o dagli altri, e di avere anche una guida spirituale in questo caso, c'è una guida spirituale nella storia, l'importanza della parola di Dio, e poi hai tanti altri temi trasversali, volevamo anche mettere alcune tematiche che riguardano propriamente i giovani, ecco, questi sono i temi più importanti. Sì, ok. E c'è un personaggio della storia a cui sei particolarmente affezionato? Di oltre questa a storia? Stella. Oltre a Stella, che è un personaggio bello, a me piace tantissimo Marco, perché si presenta semplice, buono, trova in Stella un'amica sincera, e proprio questa sua semplicità lo rende anche coinvolgente e piacevole. È un personaggio puro, un puro. Bellissimo. Allora, Don Dario, quante persone, perché siamo curiosi, lavorano a questo progetto? Perché io qui ho davanti il sussidio, poi mi dirai un attimino questo CD, praticamente che sembra una rosa di venti, cosa significano tutte queste parole, ma io ti chiedo quante persone, l'organizzatore, da chi è composta, quante persone siete, chi prepara i balletti, chi prepara le coreografie, chi sceglie le canzoni, chi butta giù la storia? Troppe persone, forse non ci vorrebbero non una puntata di Fuori di Noi, ma almeno due, forse, non lo so. No, guarda, ce ne sono veramente tante di persone, perché io lavoro con un'equipe, non sono l'unico che pensa alla storia. Diciamo che insieme con me c'è Don Fabio Mattiuzzo, sì, del Patriarcato di Venezia, poi c'è Sabina, Raffaella dell'animazione in corso, c'è, sì, Filippo, e insieme un po' pensiamo e scriviamo la storia, poi la correggiamo, va letta e riletta centinaia di volte, ogni volta c'è qualcosa che sfugge e che si vuole poi anche aggiungere. Insieme con noi c'è Nicole, che è la nostra coreografa, che coreografa, sì, appunto i balli, certo, e le danze, poi Don Fabio e Don Matteo Giorgianello pensano un po' le canzoni, quest'anno c'è anche una canzone mia perché l'ho provata e mi è piaciuta, e insieme a loro c'è tutta un'altra equipe che lavora. Ecco, Nicole nel caso delle coreografie lavora con il nostro laboratorio di teatro e musical, pensa un po' le coreografie, poi le rilancia ai bambini, i bambini in base al feedback fanno le loro correzioni, quindi si cerca di fare dei balli, delle coreografie che siano proprio adatti a loro. Allora Don Dario, siccome dobbiamo scoprire questo sussidio, ma non ce la facciamo in questa puntata, ci riserviamo appunto di richiamarti anche una seconda, certo, volta. Ti chiedo solo una cosa, abbiamo qui il sussidio davanti e c'è questo CD, dici un attimino a cosa, diciamo, vedete un CD appunto giallo con una rosa dei venti, ci sono tante lettere, cosa significano queste lettere, magari le approfondiremo nella prossima puntata. Le lettere sono la chiave di lettura per Stella per poter scoprire la sua storia e la sua vocazione. Rappresentano delle città, dei luoghi particolari che hanno un significato, diventeranno significativi per lei, ma sono significativi per noi, perché sono delle città che diventano importanti per trovare il senso della nostra vita. Il senso della nostra vita lo troviamo nella parola di Dio. Ho capito. Quindi diciamo... Non ti dico quali sono le città. Ok, no, lo riserviamo la prossima volta, visto che tu ti sei già reso disponibile con noi appunto di risentirci. Certamente. Anche perché vogliamo parlare del Grest, ma soprattutto anche di una figura importantissima all'interno del Grest, che è l'animatore. Don Dario, certo, ci risentiamo e ti ringraziamo tanto per questo primo incontro. Un saluto a tutti. Grazie ancora e buon lavoro. Allora, buon lavoro Don Dario. Ciao. E andiamo adesso, Anna, con la seconda canzone proposta dai ragazzi di Silvana. Sai chi hanno scelto? No, non lo so, perché l'hanno comunicato a te, quindi per me è tutta una sorpresa. No, ma è il tuo cantante preferito, forse Pitbull, che ci canta Rain Over Me con Mark Anthony. Girl, my body don't lie. Right one. baby, you a rockstar. Dale veterana que tú sabes más de la cuenta, no te hagas. Teach me, baby, a better yes. Freak me, baby, yes, yes. I'm freaky, baby. I'ma make sure that your peach feels peachy, baby. No bullshit bras. I like my women sexy, classy, sassy. Powerful, yes. They love to get a little nasty. Ow. This ain't a game, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, ahora ahí. And let it rain over me. Mommy, you know the drill. They won't know what I got till they read the will. I ain't trying to keep it real. I'm trying to keep wealth and that's for real. Pero mira que tú estás buena. Y mira que tú estás dura. Baby, no me hables más. Y tíramelo, mami chula. No games, you'll see. You can put the blame on me. Dale muñequita, abre ahí. And let it rain over me. Abbiamo sentito Don Dario Magro che ci ha un po' illustrato appunto per quanto riguarda il Grest 2012 e la proposta di quest'anno, poi lo risentiremo nelle prossime settimane per andare un po' più a fondo sul sussidio appunto 2012 che si chiama Stella e di cui potete trovare notizie su www.noigrest.it, ma poi anche per quanto riguarda la figura dell'animatore e come si anima all'interno di un Grest, vero Anna? Verissimo. Ma adesso c'è il momento della nostra rubrica. In oratorio si vola alto! E con chi si vola alto, Anna, quest'oggi? Oggi con i ragazzi della CR di Selvana. E allora ascoltiamo. Salve a tutti, noi siamo dei ragazzi di Selvana e adesso ci presentiamo. Io mi chiamo Gianluca. Io mi chiamo Andrea. Io sono Alessandro. Io sono Oion. Io sono Pietro. Io sono Simone. Bene. Vi faccio delle domande un po' sull'organizzazione della vostra azione cattolica. Dunque, il nome del paese da dove venite? Selvana. E il nome della parrocchia? Cristo Re. Va bene. E di che comune siete? Siamo del comune di Treviso. E quanti abitanti ha Selvana? Circa 3.500. E quante famiglie? 900 circa. Il vostro parroco come si chiama? Il nostro parroco è Don Antonio Guidolin. E quanti anni ha? 58 ed è nato il 6 febbraio 1954. Oltre alla CR avete anche altri gruppi della parrocchia? Sì, certo, ci sono anche gli scout e la Caritas. Di solito quando svolgete la CR? Beh, solitamente il sabato, ma una volta al mese anche la domenica. E a che ora? Il sabato pomeriggio dalle 15 alle 16.30. Capito. E quanti siete alla CR di Selvana? Noi siamo circa una ventina. E gli educatori chi sono? Beh, sono Giacomo, Liliana, Susi e Nicola. Va bene, e nell'ultimo incontro di cosa avete parlato? Nell'ultimo incontro noi abbiamo parlato di guardarsi dentro, cioè conoscersi. Ho capito, e a voi perché piace la CR? Beh, a noi piace perché facciamo gruppo, ci divertiamo, siamo molto uniti. E fate delle attività durante l'anno? Sì, attività più particolari sono le feste vicariali, gemellaggi con parrocchie adiacenti e altre feste o attività particolari. E quanti sono il numero degli aderenti alla C? Alla C siamo circa 25. Bene, ma cosa fanno di bello a Selvana? Vediamo se ci raccontano una bella attività che hanno fatto appunto all'interno del gruppo CR. E adesso, cosa avete imparato facendo ACR voi? Dunque, facendo ACR abbiamo imparato l'importanza di essere amici, di fare nuove amicizie. Oppure abbiamo imparato a lamentarci meno per le cose superflue e ad essere invece più grati per ciò che ci viene dato. Abbiamo imparato a condividere le cose materiali, condividere anche esperienze, momenti di riflessione e di preghiera. Inoltre, durante quest'anno ci sono stati vari momenti, anche durante i gemellaggi, in cui abbiamo riflettuto su problemi legati all'ambiente, come l'inquinamento e lo spreco di acqua. Bene. E, diciamo che questo è tutto dalla CR di Selvana e vi ciao salutiamo. Tutti. Ciao a tutti da Selvana e attenti al ghiacciaio in fiamme. Allora Anna, mi raccomando, attenta al ghiacciaio in fiamme, perché quelli di Selvana stanno attenti e loro sanno come ripararsi da un ghiacciaio in fiamme. Sì. Anna, condivisione, noi condividiamo un programma, una bella parola che conclude questa puntata di Fuori di Noi. Ringraziamo tantissimo, salutiamo gli educatori, animatori, responsabili, insomma, della CR di Selvana, protagonisti di questa puntata. Buona CR a tutti, buon lavoro e anche vivete insieme con l'oratorio una bella esperienza parrocchiale. E cosa ci manca? Cosa dobbiamo aggiungere, Anna? Quando ci vediamo? Quando ci sentiamo? La prossima settimana? Sempre, tu ci sei, sì, mi raccomando. Qui, guarda che io non inizio senza la tua Va collaborazione. Bene, sì. E senza la collaborazione di Eddie Daici, che noi salutiamo. E quindi e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao a tutti fuori di noi! Ciao, ciao! Fuori di noi. Trasmissione sugli oratori e sul mondo giovanile. A cura di Noi Associazione e Blu Radio Veneto.